L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti, prima puntata normale del 2009 dopo i due speciali che sono andati in onda nel periodo natalizio su tutti i fatti del 2008. E allora torniamo, come vuole la nostra consuetudine, a raccontarvi in un'ora gli ultimi 7 giorni di cronaca politica, fatti e personaggi. 7 notizie principali partendo da sabato scorso 3 gennaio per arrivare fino a ieri 9 gennaio. Il tutto scelto tra i servizi, le interviste e i commenti che sono già andati in onda come sempre nei GR di Radio 24. Sabato. E allora cominciamo dall'area più a rischio del pianeta, direi la più martoriata, dal futuro più incerto, ovvero la striscia di Gaza. Le ultime settimane sono state delicatissime, la situazione è precipitata, in particolare la tregua tra israeliani e palestinesi, che aveva retto tutto sommato per tutto il 2008, da novembre ha cominciato a vacillare da ogni parte. Così i palestinesi hanno iniziato a lanciare razzi contro il nemico e sabato Israele passa al contrattacco, non più soltanto per via aerea. Sentiamo allora prima Ugo Tramballi da Gaza, in diretta nel GR delle 7 di domenica, e poi da Gerusalemme domenica sera Sergio Minerbi. Le notizie non sono molto chiare, come prevedibile, perché gli israeliani non danno molte informazioni. L'avanzata è avvenuta lungo diverse direttrici verso obiettivi diversi che noi appunto non conosciamo. È molto probabile che Israele voglia presidiare e occupare tutta la parte nord della striscia di Gaza, da dove principalmente partono i razzi, soprattutto i razzi a lunga gittata, e la parte meridionale al confine con l'Egitto, da dove passano appunto di nascosto i rifornimenti di armi e munizioni per Hamas. Cosa ci si aspetta adesso? Dal punto di vista diplomatico per ora nulla, domani arriverà Sarkozy, forse più a rappresentare la Francia che l'Unione Europea, molto divisa su questo, per cercare appunto di proporre una mediazione, ma è ancora molto difficile, mi sembra abbastanza chiaro, soprattutto considerando che Israele ha appena iniziato la sua operazione terrestre. Israele, dicevo, voglia comunque consolidare la sua posizione sul campo, voglia raggiungere i suoi obiettivi e solo a quel punto cercare di imporre sì una tregua, ma una tregua che sia duratura alle sue condizioni. Sono passate solo 24 ore dall'inizio dell'operazione israeliana nella striscia di Gaza, che è stata divisa in 3 parti dai carri armati. Il Hamas ha subito 50 di vittime, gli israeliani lamentano un soldato ucciso e 20 di feriti, dei quali 1 grave. I soldati cercano le gallerie sotterranee che servono al contrabbando di armi, nonché i depositi di armi nascosti nelle case di abitazione. Ogni unità è dotata di una lista preparata dall'intelligence militare con gli obiettivi da neutralizzare. Secondo Yuval Diskin, capo del servizio informazioni Shin Bet, i leader del Hamas si sentono direttamente minacciati e sono delusi per il mancato appoggio dei paesi arabi. Scopo principale dell'operazione è quello di far cessare il tiro dei missili Qassam sui civili israeliani, ma a Sderot oggi 2 case sono state colpite in pieno dai missili. La settimana scorsa Israele ha autorizzato l'ingresso nella striscia di Gaza di 400 autocarri con aiuti umanitari. Sia Ugo Tramballi sia Sergio Minerbi, l'abbiamo appena risentito, hanno fornito i primi numeri a caldo terribili dell'attacco, ma il bilancio naturalmente sale di ora in ora, mentre si muove faticosamente la diplomazia internazionale tra Unione Europea, soprattutto Sarkozy, e gli Stati Uniti, che pure invece devono scontare una certa inerzia dovuta a questa benedetta transizione tra Bush e Obama. Proseguiamo invece con la cronaca di lunedì di questa vicenda di Gaza nel GR delle 19 con Cristina Balotelli. La notizia principale è che i soldati israeliani sono entrati a Gaza City, la capitale della striscia, capitale che viene anche in questo momento costantemente bombardata. Ora i combattimenti contro i miliziani di Hamas si spostano dunque nel centro urbano più densamente popolato del mondo. Secondo testimonianze palestinesi, decine di miliziani, non soltanto di Hamas, ma anche del jihad islamico, starebbero combattendo contro gli israeliani. Finora il bilancio, secondo fonti palestinesi, è di 50 palestinesi uccisi da tiri israeliani. Tra le vittime ci sarebbero 12 bambini. Dall'inizio delle operazioni, secondo i servizi di pronto soccorso della striscia, i morti palestinesi sarebbero 555 e 4 civili uccisi dai razzi Qassam lanciati dai palestinesi. Nel corso della giornata i jet israeliani hanno bombardato 12 di tunnel nel sud di Gaza, usati dai miliziani per contrabbandare armi dal confinante Egitto. Oggi da segnalare anche che il quotidiano britannico The Times accusa Israele di usare proiettili al fosforo bianco, sostanza vietata, per coprire con schermi fumogeni l'avanzata delle truppe nella striscia di Gaza. Prima ho accennato rapidamente ai difficili movimenti della diplomazia internazionale, in particolare degli Stati Uniti, in questa fase di passaggio di consegne tra Bush e Obama. L'Europa invece si dà molto da fare, soprattutto per iniziativa di Sarkozy. E mercoledì viene raggiunto un primo obiettivo, mentre anche in Italia il dibattito su Gaza è molto acceso. Riascoltiamo prima Adriana Fracchia e poi Sergio Nava. La diplomazia ottiene finalmente un primo risultato. In serata è arrivata infatti la notizia che Israele aprirà dei corridoi umanitari verso la striscia di Gaza. L'annuncio è stato dato dall'ufficio del primo ministro israeliano Ehud Olmert. Una novità giunta al termine di una giornata in cui le speranze di arrivare ad un cessate il fuoco sono sembrate più concrete grazie anche ad un cambiamento di posizione da parte degli Stati Uniti. Il Dipartimento di Stato americano ha chiesto infatti un immediato cessate il fuoco, durevole, sostenibile e non a tempo limitato. It is imperative that any ceasefire is durable. Dobbiamo concludere con urgenza un cessate il fuoco che possa durare e portare vera sicurezza, ha detto prendendo la parola al Consiglio di sicurezza dell'ONU il segretario di Stato americano Condoleezza Rice. Gli Stati Uniti hanno accolto con favore il piano Mubarak-Sarkozy per un cessate il fuoco immediato tra Israele e Hamas e si dovrà garantire un seguito a questa iniziativa, ha detto ancora la Rice. Un piano, quello proposto dal presidente egiziano Mubarak e dal suo collega francese Sarkozy, accolto favorevolmente anche da Europa, paesi arabi e Palestina. Si è conclusa con un duro attacco verso Hamas l'audizione del ministro degli esteri Franco Frattini sulla crisi in Medio Oriente. Oggi il problema è Hamas, capisco chi vorrebbe negoziare, ma l'Unione Europea e Israele giustamente non l'hanno fatto, ha detto Frattini, notando come dopo 5 minuti dalla fine della tregua Hamas avesse ripreso a lanciare razzi contro Israele, un'azione francamente sconsiderata. L'audizione del ministro degli esteri è stata vissuta sul filo del rasoio delle notizie provenienti dal Medio Oriente, con l'annuncio prima positivo del successo dell'iniziativa diplomatica franco-egiziana, poi raffreddato dalla parziale smentita del governo israeliano. Frattini ha ripercorso la linea diplomatica seguita da Roma in questi giorni. La prima richiesta che l'Italia ha ribadito più volte dopo il 30 dicembre è un cessate il fuoco. Critica l'opposizione con il ministro ombra Piero Fassino che chiede la fine dell'immobilismo italiano. Più duro il segretario del PD, Walter Veltroni. La nostra iniziativa è stata inadeguata perché non si è sentita la voce dell'Italia con la stessa forza con la quale si è sentita la voce della Francia o della Gran Bretagna. Un'altra giornata chiave della settimana è giovedì. Dal Libano partono diversi missili in direzione dell'Alta Galilea, quindi siamo in territorio israeliano, e si contano alcuni feriti. L'operazione Piombo Fuso, quella di attacco di Israele invece, conta un bilancio terribile, 712 morti palestinesi e 3.500 feriti. Da parte israeliana invece le vittime sono 14. Ma c'è un'altra notizia che arriva sempre giovedì e che deve molto far riflettere. Ce la racconta Cristina Balotelli. In un contesto di mancanza totale di sicurezza, anche le Nazioni Unite hanno deciso di sospendere gli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. Nel pomeriggio l'aviazione israeliana ha colpito un convoglio dell'UNRWA, l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, uccidendo l'autista. Da Gerusalemme, Filippo Grandi, vice commissario generale di UNRWA. Questi fatti si sono verificati, sono gravissimi, noi non possiamo operare in queste condizioni, abbiamo detto che sospendiamo le operazioni finché riceviamo delle garanzie dal governo israeliano. Le ONG denunciano che la situazione umanitaria nella striscia si aggrava di ora in ora e soprattutto non c'è nessun luogo sicuro. Jessica Turraz, field coordinator di Medici Senza Frontiere. Non c'è più elettricità, lavoriamo con i generatori 24 ore su 24. Non c'è più pane nelle panetterie e c'è gente che aspetta ore in coda per la strada per avere anche solo 2 pezzi di pane. Manca tutto e ancora una volta a soffrire è la popolazione civile. Quella di ieri è stata tra l'altro un'altra giornata nuovamente delicata sia sul versante militare sia su quello diplomatico e politico. Le Nazioni Unite hanno chiesto un immediato cessate il fuoco nella striscia di Gaza, ma sia Hamas sia il governo israeliano hanno deciso di ignorare le indicazioni dell'ONU e quindi di proseguire nelle rispettive strategie. Poi, al di là di nuovi attacchi e di nuove denunce, peraltro dell'ONU, di bombardamenti su 30 civili, vittime palestinesi, c'è stato anche Gheddafi che ha gettato ulteriore benzina sul fuoco, invitando un appello a tutti gli arabi perché vadano a combattere al fianco dei palestinesi. L'ottavo giorno. Domenica. Il 20 gennaio ormai è sempre più vicino, è davvero incombente. Washington si prepara al giuramento di Obama e ad accogliere non so quanti milioni di persone che saranno lì a Washington proprio per assistere a questo evento storico. Qualcuno addirittura affitta camere e appartamenti a prezzi stellari, mentre il neo presidente domenica arriva proprio nella capitale americana. Ma oltre alla famiglia si porta dietro, purtroppo per lui, un nuovo scandalo dopo quello, tutt'altro che risolto per la verità, del governatore dell'Illinois Blagojevich. Dagli Stati Uniti, Luciano Clerico. Gli Obama vanno a Washington e Washington si ferma. Per la nuova famiglia presidenziale è cominciata la nuova vita nella capitale. Per le piccole Sasha e Malia, primo giorno nella nuova scuola, la Sidwell Friends School di Georgetown. Tra una quindicina di giorni ci andranno partendo dalla Casa Bianca. Per ora lo fanno partendo da un albergo che, rispetto alla Casa Bianca, sta giusto di fronte, l'I. Adams. È lì che la famiglia Obama da ieri vive ed è in quella zona che da ieri il traffico di Washington è bloccato. Ragioni di sicurezza che valgono per tutti. Non ne è esente neppure il presidente in carica, George W. Bush. Obama nel frattempo è già alle prese con un problema di governo. Deve trovare un nuovo ministro del commercio. Il governatore del New Mexico, Bill Richardson, è infatti rimasto coinvolto in un'indagine federale su presunti favoritismi a una società californiana e ha preferito rinunciare. Obama ha meno di 2 settimane per trovarsi un nuovo ministro. Voglio tornare rapidamente su Blagojevich, che ormai sembra davvero avere ormai i giorni contati, almeno dal punto di vista politico, mentre il seggio lasciato libero da Obama in Senato alla fine dovrebbe andare all'ex procuratore generale dell'Illinois Roland Burris, ma naturalmente uso il condizionale perché in questi casi non mi stupirebbero se arrivassero altre sorprese. Ieri invece c'è stata l'ennesima conferenza stampa di Obama, che ha presentato il nuovo capo della CIA Panetta, ma la cosa più importante è stata un'altra: ha detto infatti che contro il terrorismo gli Stati Uniti faranno fede ai propri valori e non faranno più ricorso alla tortura. Più avanti invece parleremo in particolare dell'economia mondiale e italiana. Ci sono per esempio le ultime mosse dell'Unione Europea, ma anche il nuovo presidente degli Stati Uniti è per forza di cosa già al lavoro su questo versante. Giovedì Obama forse fa il discorso più importante da quando è presidente. Sentiamo da New York Mario Platero. Io non credo che sia troppo tardi per cambiare il corso delle cose, ma lo sarà se non intraprendiamo azioni drastiche al più presto. È stato un discorso di stampo elettorale, un po' come quello dei vecchi tempi durante la campagna, quello che ha pronunciato ieri Barack Obama all'Università George Mason in Virginia per promuovere il suo pacchetto economico. I destinatari però non erano gli elettori americani, bensì il Congresso, senatori e deputati che dovranno approvare questo suo pacchetto. Per ora un'unica cosa è chiara: non ci si riuscirà prima del 20 gennaio come avrebbe voluto il presidente eletto, ci vorrà più tempo, forse fino a metà febbraio. Per questo Barack Obama ha preferito non dare troppi dettagli. Il presidente eletto invece ha dato una visione: da una parte i rischi, il rischio che l'economia americana possa perdere fino a 1.000 miliardi di dollari se non si farà nulla, la promessa, quella di raddoppiare il consumo di energia pulita, di energia verde in 3 anni, quella di computerizzare tutte le informazioni, le cartelle mediche di ogni americano, quella di rilanciare l'economia attraverso la tecnologia ambientale. Lunedì. All'inizio di questa puntata ci siamo dedicati inevitabilmente a Gaza, ora invece ci concentriamo sulla piazza più calda sul piano sia politico sia giudiziario del nostro paese. Sto parlando di Napoli, che è sconvolta in queste ultime settimane da inchieste e arresti a catena. Lunedì si arriva ad una doppia svolta. Da una parte c'è il sindaco Iervolino, che presenta la nuova giunta con 10 assessori confermati e 6 nuovi di zecca, diciamo così. Ma a non tutti questa scelta piace, perché infatti dall'altra parte c'è l'ex ministro e segretario provinciale del PD Luigi Nicolais, che si dimette. Sentiamo Laura Viggiano e poi proprio Nicolais ai microfoni di Radio 24. Ha deciso di dimettersi mentre il sindaco Tosarusso Iervolino presentava la nuova giunta con 6 new entry. Il segretario cittadino del PD, l'ex ministro Luigi Nicolais: le scelte del sindaco non garantirebbero la necessità di rinnovamento e disattendono la linea della PD. Insomma, il nuovo governo cittadino, che secondo Iervolino è il massimo del rinnovamento possibile, non riporta ciel sereno. Il primo cittadino intanto precisa di aver costruito la nuova squadra con i partiti della coalizione. Il sindaco ha tenuto con correttezza, e la correttezza è dimostrata anche da alcune registrazioni, se qualcuno volesse metterlo in dubbio, i rapporti con il suo e con gli altri partiti politici che ringrazio per uno stile costruttivo. Sul fronte giudiziario, il parlamentare della PDL Italo Bucchino si è presentato spontaneamente davanti ai magistrati e intanto si attende la convalida del fermo per l'ex assessore Gambale e l'ex provveditore alle opere pubbliche Mario Mautone. Io avrei voluto vedere, diciamo, una giunta aggressiva, piena di ambizioni, molto forte, che dava veramente il segnale del cambiamento, perché questi 2 anni e mezzo sono 2 anni e mezzo che non devono essere la continuazione dei precedenti 2 anni e mezzo. Beltroni, il segretario del Partito Democratico, ha deciso di tenere controvoglia magari la Iervolino per evitare le elezioni. Questo è quello che dice Mario Orfeo, quello che dicono diversi commentatori di quasi tutti i giornali. Questo in parte è vero, perché sicuramente oggi andare alle elezioni, diciamo, è un po' rischioso per il Partito Democratico in una situazione come ci troviamo. Dalle indagini attualmente che sono state fatte su Napoli e province, c'è un livello, diciamo, di numero di persone che voterebbe per il Partito Democratico che è intorno al 25-30%, che quindi non permetterebbe di rivincere le elezioni. Quindi questo ovviamente spinge verso una certa, diciamo, prudenza. Il terremoto politico di Napoli, di cui abbiamo sentito le ultime vicissitudini, ha una sua causa scatenante ben precisa, e cioè la serie di arresti e provvedimenti cautelari che scattano negli ultimi mesi nella città campana. Sabato, quindi soltanto 2 giorni prima delle novità presentate dalla Iervolino, c'erano stati importanti sviluppi. Ce li racconta ancora Laura Viggiano. Resta in carcere l'imprenditore Alfredo Romeo, protagonista principale dell'inchiesta Global Service. Il Tribunale del Riesame di Napoli lo ha deciso dopo una camera di consiglio durata circa 8 ore, che ha confermato sostanzialmente l'impianto accusatorio della procura, anche se sono state revocate le misure per 3 indagati. Torna in libertà l'ex assessore Enrico Cardillo, ma solo perché non sono state ritenute valide le esigenze cautelari. La procura tira un sospiro di sollievo, l'impianto ha retto alla verifica del riesame, dice il procuratore Giovanni Domenico Lepore, e questo, aggiunge il coordinatore della DDA Franco Roberti, ci conforta sulla validità della nostra tesi, quindi su questa base si va avanti. Ieri, per un vizio di forma, sono stati annullati gli arresti domiciliari emessi per l'ex assessore comunale Giuseppe Gambale e l'ex provveditore alle opere pubbliche Mario Mautone. Il Tribunale ha accolto le eccezioni avanzate dai difensori, che non avevano ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza davanti al riesame. Ma i 2 indagati non sono mai tornati in libertà, perché i PM hanno emesso un decreto di fermo che è stato notificato contestualmente al provvedimento di decadenza delle misure cautelari. Torniamo a quello che è il fronte squisitamente politico dell'affare Napoli, anche se poi è difficile separarlo dai binari delle inchieste e da quella che aleggia a monte di tutta questa storia, ovvero la questione morale. Non c'è dubbio che il partito più colpito, suo malgrado, in primo piano è il PD. Mercoledì c'è un'importante riunione a Roma. Ecco il servizio proprio dalla capitale di Elisabetta Fiorito. Stretta sul territorio e rinnovamento, sono queste le parole chiave del coordinamento del Partito Democratico convocato dal segretario Walter Veltroni. Al centro sempre Napoli, dopo lo scandalo che ha travolto la giunta. I commissariamenti, dice Veltroni, non devono essere visti come negativi, ma in modo positivo, perché sono il segno della presenza centrale del partito nelle situazioni locali. Il portavoce del PD Andrea Orlando nega poi altri provvedimenti. No, le commissariamenti riguardano soltanto le regioni che sono già state indicate e decise, cioè l'Abruzzo e la Sardegna e il coordinamento di Napoli. Nessun'altra ipotesi è in campo e non se n'è neppure discusso. In prima linea dunque il caso Napoli. Veltroni accompagnerà la prossima settimana il commissario Enrico Morando. Anna Finocchiaro chiede quali poteri e autorevolezza avrà Morando e il senatore piemontese risponde che è a disposizione per favorire l'operazione di rinnovamento. Non c'è però soltanto Napoli a turbare i sonni dei dirigenti del Partito Democratico. Gli ultimi mesi, forse direi tutto l'ultimo anno, hanno infatti segnato duri colpi anche in Toscana e Abruzzo, per esempio. A Pescara si sta consumando una delle vicende più complicate in questo senso. Ecco il servizio in onda lunedì di Stefano Totolo. Resta sindaco ma è in malattia. Ecco il colpo di scena di Luciano D'Alfonso, primo cittadino di Pescara, arrestato lo scorso 15 dicembre e scarcerato alla vigilia di Natale. È accusato di corruzione, falso, truffa e peculato, di aver preso tangenti per appalti in aree urbane. Poco prima di finire ai domiciliari parlamentari, D'Alfonso aveva dato le dimissioni da primo cittadino, gesto che inizialmente non gli ha consentito di evitare la misura cautelare, ma 9 giorni dopo, pur restando in piedi tutto l'impianto accusatorio, proprio le dimissioni sono state alla base dell'ordinanza di scarcerazione. Oggi D'Alfonso fa un passo indietro, anche se nella sostanza cambia poco o niente. Usa un escamotage che suona come un punto d'equilibrio con i magistrati, ritira le dimissioni, torna a ricoprire la carica, ma è in malattia almeno per 6 mesi. La giunta conserva le funzioni e il vice sindaco Camillo D'Angelo prende il suo posto. Così D'Alfonso evita il commissariamento del comune, ma non le elezioni anticipate a giugno di quest'anno. In una lettera aperta ai cittadini li ringrazia per il sostegno, ma dice non ci sono le condizioni per continuare. Un segnale che forse è arrivato anche dai vertici del PD all'assemblea cittadina di 2 giorni fa. In sostegno di D'Alfonso non c'era nessuno. Torniamo adesso a Roma, perché nel frattempo prosegue l'attività del Parlamento. C'è la maggioranza che peraltro ha i suoi problemi, in particolare con Alitalia, ma naturalmente di questo parleremo a parte, dedicheremo uno spazio intero dell'ottavo giorno e come potremmo far diversamente. Intanto però da giovedì diventa legge il decreto Gelmini che riordina l'università. Elisabetta Fiorito ha intervistato proprio il ministro Gelmini. Ecco la sua voce. Cambia la prospettiva, si comincia ad affermare il merito, un utilizzo e un impiego attento ed oculato delle risorse pubbliche, una differenziazione fra le università virtuose e le università sprecone e poi una maggiore trasparenza nei concorsi. Abbiamo deciso di intervenire su concorsi già banditi introducendo il sorteggio proprio per garantire la massima correttezza e la massima trasparenza nella selezione dei professori universitari. Abbiamo poi trovato delle risorse a dispetto della polemica sui tagli sul diritto allo studio con 130 milioni di euro che consentiranno al governo Berlusconi di stanziare borse di studio per tutti i ragazzi capaci e meritevoli. Invece sulla scuola si dice che lei ha fatto un po' retromarcia sul maestro unico. Su una marcia indietro, in realtà il maestro unico rimane, è il modello educativo di riferimento. Quello che si è capito nel tempo è che il maestro unico è perfettamente compatibile con il tempo pieno, quindi anche qui molte polemiche inspiegabili sull'abolizione del tempo pieno oggi, come dire, non hanno più ragion d'essere. L'ottavo giorno, martedì. Ad ogni inverno, ormai da diversi anni, torna il tormentone del gas, che poi in realtà è una vera e propria crisi internazionale che crea non pochi problemi anche al nostro paese. La Russia è l'attore principale di questa intricata contesa perché fornisce l'Europa in gran parte del gas che serve, ma i suoi gasdotti passano anche dall'Ucraina e dunque questa partita, che è politica, economica e anche strategica, proprio tra Russia e Ucraina, si gioca anche al tavolo del gas. Ecco la scena che si presenta martedì con Antonella Scott e a seguire la reazione italiana nel servizio di Paola Cavani. Quando a Capodanno Gazprom chiuse i rubinetti del gas venduto all'Ucraina in mancanza di un contratto per il 2009, la speranza era che si potesse trovare un accordo per Natale, il Natale ortodosso, cioè oggi. E invece da un giorno l'Europa ha cominciato a sentire pesantemente il calo delle forniture, ma russi e ucraini hanno proseguito a rinfacciarsi le rispettive responsabilità senza dimostrare di volersi avvicinare a una soluzione. Bisognerà forse attendere domani. Il responsabile della compagnia energetica ucraina Dabina sarà a Mosca per tentare un accordo. Gazprom si dice sorpresa dalla novità e intanto l'Europa continuerà a ricevere poco più di un quinto del gas che arriva normalmente dall'Ucraina. Il braccio di ferro in cui ormai l'Unione Europea è coinvolta continua. Nella guerra del gas tra Russia e Ucraina anche l'Italia potrebbe subire ripercussioni. Lo ha detto ieri l'Unione Europea, sottolineando i rischi di una possibile riduzione di forniture dalla Russia. A confermarlo è anche l'ENI, secondo cui ieri è arrivato in Italia solo il 10% del gas previsto. La fornitura russa rappresenta circa un quinto del fabbisogno italiano, pari cioè a 300 milioni di metri cubi di gas. Rassicurazioni sono arrivate dal ministro per lo sviluppo economico Claudio Scajola. Abbiamo firmato un decreto per massimizzare tutte le importazioni di gas dagli altri paesi. Certo è, ha aggiunto il ministro, che di fronte a eventuali picchi di freddo nel mese di marzo potrebbe sorgere il rischio di non garantire tutta l'energia necessaria. Il ministero ha ricordato inoltre che tra qualche settimana entrerà in funzione il rigassificatore di Rovigo realizzato da Edison, che importerà gas liquido dal Qatar e che avrà una capacità a regime pari al 10% dei consumi nazionali. I vertici dell'ENI si sono riuniti ieri a Milano per valutare la situazione e decidere eventuali contromosse. La Russia, l'ho detto anche pochi minuti fa, in questa storia ha spesso e volentieri il coltello dalla parte del manico. Lo si capisce anche dagli annunci che arrivano da Mosca mercoledì, alla vigilia di un delicato vertice europeo proprio sul tema del gas. Sentiamo proprio da Mosca il corrispondente Vladimir Sapochnikov. Dopo aver bloccato ieri completamente l'export attraverso il territorio ucraino del gas destinato all'Europa, Mosca ha annunciato che le forniture saranno riprese se l'Ucraina accetterà le tariffe a prezzi di mercato e permetterà di coinvolgere nel processo gli osservatori dell'Unione Europea. Mosca ha più volte denunciato i furti di gas in Ucraina, che negli ultimi giorni avrebbe dirottato nella propria rete interna di gasdotti decine di milioni di metri cubi di metano destinati ai consumatori europei. In attesa dell'arrivo oggi in Ucraina degli osservatori europei con il mandato di controllare la situazione al confine tra Russia e Ucraina e a quello tra Ucraina e paesi europei, Mosca ha sospeso l'export del gas mettendo a rischio la stabilità energetica di molti paesi dell'Europa centrale e orientale. Sempre oggi a Bruxelles, il presidente del monopolio russo Gazprom, Alexei Miller, con i contratti russi-ucraini in mano, dovrà illustrare ai rappresentanti della Commissione europea la posizione russa sul problema del gas, dopodiché a Mosca si riuniranno le delegazioni di Gazprom e della sua controparte ucraina Naftogaz per cercare una via d'uscita dalla crisi che sta causando danni miliardari al settore energetico in tutta l'Europa. In Italia in questi giorni le autorità politiche competenti e la stessa ENI hanno cercato, si sono sforzate di usare toni sempre molto rassicuranti, soprattutto sulle scorte che sono a nostra disposizione. Se si pensa però ad altri paesi, in particolare la Cina, che da anni va a caccia di risorse energetiche, compreso il gas, in Africa e Sud America, forse bisognerebbe davvero fare un'analisi seria sulla strategia, non di breve respiro ma di lungo raggio, che il nostro paese si è data, o forse non si è data, in campo energetico. Tant'è, torniamo invece a quello che succede due giorni fa in Italia con Andrea Viali. La situazione è delicata, ma al momento il nostro paese è a riparo dalle eventuali conseguenze della guerra del gas fra Russia e Ucraina, lo assicura il ministro delle attività produttive Scajola, che ieri ha convocato al suo ministero gli operatori del settore per fare il punto della situazione. Il gas russo è importante e se venisse a mancare per un lungo periodo sicuramente sarebbe un problema, ha ammesso Scajola, secondo il quale comunque grazie alle nostre scorte abbiamo almeno due mesi di autonomia. Abbiamo scorte che possono garantire il sistema per un periodo lungo e quindi più lungo della risoluzione del problema fra Russia e Ucraina, quindi arriverà prima il gas russo dell'esaurimento delle scorte italiane. Rassicurazioni sono arrivate anche dai vertici di Eni, Enel ed Edison, secondo cui le nostre riserve sono ai massimi storici e nonostante il blocco delle forniture deciso dalla Russia, non ci saranno conseguenze per famiglie e imprese. E sempre giovedì la situazione sembra sbloccarsi anche in ambito più generale europeo. Mentre il governo italiano ha fatto sapere che riferirà sulla situazione di crisi del gas mercoledì prossimo, il 14 gennaio, ieri la Commissione europea ha detto: tutte le condizioni concordate tra l'UE, la Russia e l'Ucraina sono soddisfatte, permettendo così un'immediata ripresa delle forniture di gas dalla Russia destinate ai consumatori europei. Ma già giovedì si era capito, insomma, che si stava andando verso una schiarita, almeno speriamo che sia così anche nei prossimi giorni. E allora sentiamo da giovedì ancora un servizio di Vladimir Sapochnikov. Oggi pomeriggio, al più tardi domani mattina, il gas russo potrà ritornare in Europa. Mosca e Bruxelles hanno dichiarato che l'invio in Ucraina degli osservatori dell'Unione Europea dovrà permettere di sbloccare la crisi del gas che aveva lasciato al freddo molti paesi dell'Europa centrale e orientale. Il Cremlino accusa l'Ucraina di aver rubato decine di milioni di metri cubi di metano che invece di raggiungere i consumatori europei sarebbero state dirottate nella rete interna ucraina di gasdotti. Per questo motivo il dispiegamento di osservatori, ha annunciato Topolane Capraga, avverrà in tutti i luoghi in cui ciò sarà necessario per controllare il flusso del gas. Resta aperto invece il problema cruciale del prezzo che l'Ucraina dovrà pagare nel 2009 per il metano russo. Mentre Kiev insiste su un prezzo di 201 dollari per 1000 metri cubi di gas, la Russia vuole applicare la tariffa quasi europea di 450 dollari dopo che Kiev ha respinto a fine anno un'offerta russa di 250 dollari. Mercoledì. È il giorno peggiore in Italia sul versante del maltempo. Ci sono molti disagi un po' in tutta Italia, in particolare al nord, e purtroppo si contano anche 10 morti. Ma nel nostro racconto cominciamo invece dal quadro della situazione di lunedì sera con Alessandra D'Angiò. Gomme da neve o catene? Senza averle a bordo è meglio non mettersi in macchina. Da stasera infatti si annunciano 24 ore di freddo intenso, con rischio gelate e di nevicate sull'Appennino settentrionale e in tutto il nord, anche in pianura. Un connubio che potrebbe portare non pochi disagi, soprattutto sulle autostrade interessate dal controesodo. Per questo la Protezione Civile ha lanciato un appello, come spiega il dirigente Luigi D'Angelo. Abbiamo sin da ieri consigliato di anticipare il rientro delle festività natalizie a chi dovesse appunto mettersi in viaggio in queste ore o comunque posticiparlo, proprio per evitare disagi. E mentre la notte porterà abbondanti nevicate fino a 70 cm sui rilievi, il gelo non ha abbandonato l'Italia neanche oggi. Dopo l'acqua alta delle scorse settimane, Venezia ha visto ghiacciare alcuni canali della laguna, mentre a Montepratello, vicino a Roccaraso, si è registrata la temperatura siberiana di meno 30 gradi. Altro giorno difficile sul versante del maltempo è quello di martedì, altre difficoltà un po' sparse in tutta Italia. Un servizio di Anna Rita D'Ambrosio. Scuole chiuse nel Bergamasco in provincia di Novara e Vercelli, a Milano e Torino in Biancate, ripresa delle lezioni regolare. L'allerta maltempo non è comunque passata ed oggi a Roma si terrà una riunione straordinaria alla Protezione Civile. Guido Bertolaso. Non è ancora finita, ricomincerà a nevicare soprattutto nel nord e in alcune regioni del centro, vi sarà poi parecchio freddo, quindi ci sarà il rischio di gelo con le strade che potrebbero diventare delle piste di pattinaggio. Le forti nevicate sui 600 chilometri della rete autostradale non hanno provocato ieri particolari disagi, anche grazie ai mezzi spazzaneve e spargisale e alle 1300 pattuglie della polizia stradale. Qualche problema invece per il traffico aereo, ritardi a Orio al Serio e a Malpensa con 18 voli cancellati a Linate. A Milano, allarme negli ospedali, dove non ci sono più posti letto nei reparti di medicina generale. Colpa dell'influenza, ma soprattutto del riacutizzarsi di malattie croniche provocate dal freddo. E arriviamo finalmente al giorno fatidico, cruciale dei disagi, ovvero mercoledì, soprattutto a Milano. Ecco la lunga cronaca fornita da Paolo Panceri. Milano si sveglia ieri coperta da uno strato di neve di 40 centimetri che blocca tutto, uomini e veicoli. Muoversi in città diventa difficilissimo e le conseguenze sono inevitabili. Uffici deserti, udienze saltate in tribunale, viabilità impazzita con mezzi pubblici bloccati, treni fermi, aerei a terra linate, Malpensa e Orio al Serio. Gli aeroporti restano chiusi fino alle 13, poi riaprono ma con attività ridotta. Inevitabili le proteste dei tanti pendolari che ieri in città hanno dovuto fare i conti con i disagi. La situazione è tragica secondo me, comunque di spazzaneve ce ne sono in giro ma pochi, non tanti. Pessima, purtroppo. La metro funziona ma i mezzi, ahimè. Ma quali mezzi pubblici, signora? Quale? È vergognoso. La nevicata sembra prendere in contropiede il comune, che si aspettava 25 cm al massimo invece di 40. In particolare le polemiche hanno riguardato le 7.000 tonnellate di sale di scorta, insufficienti, secondo il sindaco Letizia Moratti, per la sequenza troppo rapida delle nevicate, le difficoltà di rifornimento dall'esterno e l'aver dato sale ad altre città come Torino. Nella seconda metà della giornata la situazione migliora, complice anche la pioggia che scioglie la neve. Nel tardo pomeriggio il sindaco Moratti fa ancora il punto della situazione, ribadisce che oggi tutte le scuole cittadine resteranno aperte. I mezzi ATM sono tutti fuori, la situazione del sale è assolutamente sotto controllo. La nevicata ha provocato anche una vittima in città. Si tratta dell'imprenditore Mauro Bertini, di 46 anni, travolto nel primo pomeriggio dal crollo di una tenda carica di neve. Il peso ha fatto staccare il cornicione al quale la tenda stessa era fissata, che ha colpito l'uomo uccidendolo. L'ottavo giorno. Giovedì. Non poteva davvero mancare all'Italia nel racconto di quest'ultima settimana, anche perché questa è stata una settimana importante che chiude il discorso fondamentale sul partner estero della nuova compagnia di bandiera italiana. Sentiamo nel servizio di Marco Lignana il clima ad inizio settimana, quando la sfida tra chi sostiene Air France e chi Lufthansa è ancora aperta. E poi il commento di Gianni Dragoni del Sole 24 Ore. Manca ancora una settimana al decollo, ma il destino della nuova Alitalia non è ancora chiaro. In lotta per diventare il partner della compagnia restano sempre in due, Air France e Lufthansa. I francesi sono favoriti, ma Berlino non vuole uscire di scena e in favore della compagnia tedesca è tornato di nuovo in campo il fronte del Nord, preoccupato per le sorti di Malpensa. Ieri gli stati maggiori della Lega hanno ospitato il sindaco di Milano, Letizia Moratti, e il presidente di SEA, la società che gestisce lo scalo lombardo, Giuseppe Bonomi. Il risultato dell'incontro è nelle parole del ministro per la semplificazione, Roberto Calderoli. Lufthansa è in grado di garantire da una parte occupazione e servizi di livello, ma soprattutto anche i due hub, sia Malpensa sia Roma Fiumicino. Diversamente la risposta del governo non può che essere la liberalizzazione del traffico con esito immediato. L'ultima carta della Lega è un vertice domani fra Bossi e Berlusconi, il leader del Carroccio ottimista. Non bisogna rovinare l'economia del paese. Il 50% delle merci italiane parte da Malpensa, quindi bisogna tener conto di questa realtà. Con Berlusconi poi troviamo sempre l'accordo. La nuova Alitalia viaggia verso un'alleanza con Air France KLM che acquisirà fino al 25% del capitale. Non esiste un'alternativa a Lufthansa, anche se la Lega Nord ha ripetuto ieri che questo sarebbe il partner ideale per lo sviluppo di Malpensa. Un incontro tra il leader della Lega Bossi e il premier Berlusconi domani sarà probabilmente l'ultimo ostacolo prima che il presidente Colaninno annunci l'alleanza con Air France entro la fine della settimana, prima cioè che la CAI cominci a gestire l'attività il 13 gennaio. L'offerta francese piace di più perché i francesi non pretendono di comandare e puntano sullo sviluppo di Fiumicino. Lufthansa, che avrebbe voluto il comando della nuova società, non avrebbe comunque assicurato uno sviluppo di Malpensa come hub intercontinentale, ma solo come polo di traffico europeo, come del resto farà con il piano Scala al decollo dal 2 febbraio prossimo. Giovedì è il giorno dell'incontro a Palazzo Grazioli tra Berlusconi e Bossi, che poi sono i due alfieri delle due anime nella trattativa dell'Italia, chi sta con Air France e chi sta con Lufthansa. Ecco com'è andata nel servizio da Roma di Vincenzo Miglietta. A pochi giorni dal decollo vero e proprio della nuova Alitalia fissato per martedì 13, non accenna a chiudersi il capitolo politico relativo al partner straniero. Anche il faccia a faccia Berlusconi-Bossi allargato ai sindaci di Milano e Roma non mette infatti la parola fine alla delicata vicenda. A rilanciare proprio il leader della Lega Nord, che annuncia l'opzione Lufthansa è ancora in campo. Chi pensa di operare senza considerare Milano come un hub, aggiunge Bossi, è destinato al fallimento. Di altro avviso il primo cittadino della capitale, così Alemanno. Allo stato attuale ci hanno detto che non c'è nessuna offerta concreta da parte di Lufthansa e c'è solo una trattativa che sta per chiudere con Air France. In serata a gettare acqua sul fuoco delle polemiche è lo stesso Berlusconi, che spiega c'è una trattativa molto avanzata con Air France che ha raggiunto un punto molto positivo per la compagnia. Ciò, aggiunge il premier, non esclude che se Lufthansa volesse presentare un'offerta più vantaggiosa, nulla impedisce a CAI di prenderla in considerazione. Critico con il governo il Partito Democratico, così Veltroni. Il governo Berlusconi ha svenduto all'Italia Air France. Si è fatta una scelta che è una scelta che fa gli interessi degli imprenditori privati e non certo dei cittadini. E sempre giovedì, come peraltro si sa ormai da diversi giorni, si svolge il Malpensa Day. A sfilare sono tutti i sostenitori dell'accordo con Lufthansa. Questi sostenitori in particolare invece temono che con l'intesa con Air France ci possa essere un brusco ridimensionamento dell'aeroporto proprio lombardo di Malpensa. Il racconto di questa giornata con Giovanni Capuano. Malpensa e Fiumicino, aeroporto in fibrillazione. Mentre nei palazzi della politica si chiude la questione della nuova Alitalia, nell'ex hub varesino va in scena il Malpensa Day. Intorno a un tavolo si trovano amministratori locali, imprenditori, sindacati e rappresentanti del commercio, insieme per dire che Malpensa deve essere lasciata libera di crescere e non soffocata dall'alleanza con Air France. Il presidente della provincia di Milano, Penati. Qui si gioca un pezzo di PIL importante del nostro paese. Non è possibile che le scelte vengano fatte per proteggere il piccolo monopolista che è CAI. Al governo vengono chiesti la liberalizzazione di slot e rotte e ammortizzatori sociali per chi perde il lavoro. 4.000 persone subito, 56.000 nei prossimi anni, secondo alcune stime. A Roma intanto Fiumicino va in tilt, colpa dell'assemblea con manifestazione di 400 lavoratori del settore pulizie e bagagli di Alitalia, cancellati in tutto una settantina di voli. Proteste illegittime, secondo il garante sugli scioperi. In questa storia infinita di Alitalia che ha accompagnato tutti questi ultimi mesi e oltre dell'ottavo giorno, per il momento ci fermiamo a quello che accade ieri. Infatti Air France approva l'offerta per acquistare il 25% della nuova Alitalia. L'accordo vale 310 milioni di euro. Adesso si attende soltanto l'ufficializzazione della notizia da parte della nuova Alitalia. L'appuntamento è per lunedì nel corso del Consiglio di Amministrazione a Roma. Sentiamo invece i risvolti politici della vicenda con Vincenzo Miglietta. È una partita su due fronti, quella relativa alla vicenda Alitalia, da una parte i contatti e i possibili accordi tra i vertici CAI ed Air France, con la Lufthansa pronta a rientrare in gioco, dall'altra il confronto politico tutto interno alla maggioranza. Berlusconi ha di fatto dato il via libera all'intesa con i transalpini, ma la necessità di mantenere buoni rapporti con la Lega in vista dei prossimi impegni di legislatura consigliano comunque prudenza. Da qui l'ampia disponibilità promessa a Bossi per lo scalo lombardo. Il premier avrebbe insistito poi con Colaninno e Sabelli affinché Malpensa abbia in futuro una maggiore presenza di voli all'Italia. Altro passo della coalizione di governo verso la Lega è l'emendamento al decreto anticrisi presentato alla Camera, subito ribattezzato Salva Malpensa. Il testo, fatto proprio dai relatori, mira ad ampliare la concorrenza e a rendere lo scalo un vero e proprio hub internazionale. La gestione dell'intera vicenda all'Italia continua tuttavia a non piacere all'opposizione. Per Bersani, PD, il costo per la collettività supera i 3 miliardi di euro. Capezzone PDL replica: abbiamo salvato una compagnia che Prodi stava svendendo. Venerdì. Chiudiamo la settimana dell'ottavo giorno con le notizie dall'economia, ce ne sono come sempre moltissime e purtroppo molto allarmanti. Direi che l'ultima e forse la più grave di tutte viene dagli Stati Uniti, dove la disoccupazione, notizia di ieri, è arrivata addirittura al 7,2%, ci sono stati 2,5 milioni di posti di lavoro in meno, posti di lavoro persi nell'ultimo anno, non si andava così male dal 1945, quindi dalla fine della guerra. In Italia invece c'è un altro indicatore della crisi, il ricorso sempre più massiccio alla cassa integrazione. Sentiamo Valeria De Rosa. La crisi morde e la cassa integrazione ne è prova evidente. A dicembre i trattamenti complessivi per integrare i redditi nell'industria e nel settore dell'edilizia sono cresciuti oltre il 110% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Questo è il risultato del forte incremento della cassa integrazione ordinaria dovuta alla crisi, cioè aumentata addirittura del 525%. Quella straordinaria, utilizzata ad esempio in casi di ristrutturazione, è invece calata dell'11% circa. Guardare l'intero anno però fa meno impressione. Nel 2008 i trattamenti totali di cassa integrazione sono saliti di poco più del 24%. L'industria trema e tremano anche i distretti. Traditi dall'export ne sono in rosso 6 su 10. La prova in uno studio di Intesa San Paolo, come racconta il curatore Fabrizio Guelpa. I distretti sono fortissimamente legati alle esportazioni, hanno quote di mercato molto elevate praticamente in tutti i settori, e nel momento in cui la congiuntura si fa negativa ne soffrono di più. In Europa si sa la situazione non è migliore, ecco perché il governo di Angela Merkel starebbe pensando a un intervento da 100 miliardi di euro per le aziende tedesche con difficoltà di accesso al credito. E anche per queste ultime notizie di cui abbiamo appena parlato che l'Europa si muove rapidamente, non può fare diversamente, soprattutto sull'asse Parigi-Berlino. Sentiamo gli annunci di giovedì in questo servizio di Attilio Geroni. La crisi ha rafforzato la politica di cooperazione europea e di questo dovranno tenere conto gli Stati Uniti di Barack Obama quando al G20 di aprile a Londra si getteranno le basi per la rifondazione del capitalismo. E questo è il senso del messaggio lanciato alla Conferenza Internazionale di Parigi da Nicolas Sarkozy e dal cancelliere tedesco Angela Merkel. Nessun paese da solo può più dire agli altri che cosa deve fare, che cosa deve pensare, ha detto il presidente francese all'apertura dei lavori, salutando con l'avvento della crisi la fine del pensiero unico che vedeva prevalere l'economia sulla politica, il mercato e la finanza sulle imprese, sulla produzione, la deregulation sfrenata sull'etica, sulla responsabilità sociale. Gli ha fatto eco Angela Merkel, determinata a uscire dal G20 con proposte concrete di una nuova governance mondiale, da ancorare, secondo una sua proposta, a un consiglio economico modellato sul Consiglio di sicurezza dell'ONU e sulla Dichiarazione universale dei diritti umani. Una posizione condivisa dall'Italia, presente ai lavori con il ministro dell'economia Giulio Tremonti, che ha paragonato la crisi a un videogioco infernale dove sconfitto un mostro se ne presenta subito un altro, più grande e pericoloso del precedente. Sarkozy la chiama fine del pensiero unico, la Merkel invoca un ONU dell'economia, l'Italia vuole fissare nuovi riferimenti su una scala di valori in cui l'etica abbia un ruolo fondamentale, un legal standard che si sostituirà al gold standard. In questi giorni intanto l'euro ha compiuto 10 anni, infatti era il 1998 quando nasceva la moneta comune europea. Ricordate, c'era molto scetticismo all'inizio, ormai invece sono in pochi che rimpiangono e che si ricordano la lira, anzi no, qualcuno rimpiange forse la nostra vecchia lira e vorrebbe un ritorno al passato. A Radio 24 lunedì è ospite addirittura Carlo Azeglio Ciampi, l'ex presidente della Repubblica e ministro all'epoca proprio della nascita dell'euro. Qui il suo racconto al microfono di Gigi Donelli. Per essere ammessi nell'euro bisognava rispettare alcuni criteri, fra cui certi rapporti. Il rapporto principale da osservare era il rapporto fra il disavanzo e il prodotto interno lordo. Non doveva essere maggiore del 3%, come tuttora è la regola. Noi allora partimmo addirittura da percentuali enormi, ma anche nel 1986 avevamo chiuso con il 7,5% di rapporto disavanzo PIL. Io ho preso gli impegni in un anno, d'accordo con il Presidente del Consiglio Prodi e tutto il Governo, di portarlo al 3%, e fu una sfida veramente quasi impossibile. Abbiamo ancora l'ottava notizia da raccontarvi che ci permette una digressione in ambito sportivo e in particolare in ambito calcistico, anche se non dobbiamo parlare purtroppo del calcio giocato, quello tra l'altro ricomincia oggi con il campionato di Serie A di nuovo al via dopo la pausa natalizia. Parliamo invece del calcio finito nei tribunali, perché giovedì arriva la prima sentenza della GEA e che riguarda soprattutto Moggi. Dario Ricci. Numero proprio italiano, il tribunale dichiara Moggi Luciano e Moggi Alessandro colpevoli. Condanna Moggi Luciano alla pena di N1 e mesi 6 di reclusione, Moggi Alessandro alla pena di N1 e mesi 2 di reclusione. È frenato tutto l'impianto accusatorio. Se non mi prosciolgono, dovrebbero insorgere il calcio come società, la federazione e la Lega. Torna a battagliero e serafico Luciano Moggi, come quando, prima della bufera, sigaro in bocca e cellulari alle orecchie, teneva le fila del calcio italiano. Promette di ricorrere in appello Big Luciano dopo la sentenza del Tribunale di Roma al processo GEA World, la società che, dal 2001 e fino a Calciopoli, ha gestito le procure di numerosi calciatori di serie A e B. Un anno e mezzo di reclusione per lui, un anno e 2 mesi al figlio Alessandro, assolti gli altri imputati tra cui Davide Lippi, figlio del CT Azzurro. Di fatto la sentenza scardina l'impianto accusatorio dei PM Palamara e Calaia. Niente associazione a delinquere finalizzata all'illecita concorrenza, secondo i giudici. Le condanne per i due Moggi, per i quali l'accusa aveva chiesto rispettivamente 6 e 5 anni, derivano da minacce nei confronti di 4 calciatori e le pene verranno comunque annullate dall'indulto. Per Big Luciano però i processi non sono finiti. Il 20 gennaio scatta a Napoli quello su Calciopoli. L'ottavo giorno finisce qui. Ringrazio Alessandro Chiappini in regia. Ricordo la mail a cui potete scriverci: ottavogiorno@radio24.it. L'appuntamento è la settimana prossima alla stessa ora, sempre su Radio 24.